Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Lo sai chi ha composto il pezzo che stai provando? No, chi? Io. Ti assicuro che non ti annoierai, perché io ti ho prenotato un bel trattamento completo. Quindi farai i massaggi, la sauna, i check-up con i medici ogni giorno. Ma alla mia età mettersi in forma è una perdita di tempo. Hai pisciato oggi? 4 gocce. Tu? Uguale, più o meno. Più o meno? Meno. Deve essere un posto perfetto per rilassarsi. È soltanto un posto per rilassarsi. Tranquilli, non è l'appendice prostatica del programma che ci precede, ma il fatto che sia stato ospite un gonadologo vi favorisce, perché quelli che vorranno strizzarsi gli attributi per gesto scaramantico possono farlo e sapere a chi rivolgersi per le conseguenze di tipo fisiologico. Avete sentito l'incipit di un film di cui si parla molto, l'ultimo film di Sorrentino, che io non ho avuto il coraggio di andare a vedere prima. Mi hanno detto: se vai a vederlo ti immedesimi, quindi ti deprimi, non andare a vedere, perché un film che parla di anziani decadenti, di signori che ormai hanno alle spalle la loro vita, e soprattutto vedere quel trailer con due vecchioni in un angolo della sauna che guardano sconsolati la stupenda Miss, culo perfetto, tette da capogiro, che entra nella piscina e manco li guarda, manco si copre, manco ha un gesto di pudore, perché non c'è più niente di umano, di virile, di attenzionante in quelle due larve appoggiate lì. Questo deve essere il mio futuro, non mi rassegno. Giuseppe Sansonna. Sei esagerato, anche perché hai un'età diversa da Harvey Keitel e Michael Caine a occhio e croce. Comunque il film è sulla... Michael Caine servilizzato, è servillo trasformato in Michael Caine. È nel pantheon estetico di Sorrentino, ancora una volta, che insiste sulla solitudine rituale del maschio, però trasferisce due. Tu l'hai visto? Sì. Vabbè, sì, tu sei giovane. No, però mi sono emozionato in alcuni punti, mi sono emozionato anch'io, anche se il film è totalmente astratto, quasi sospeso in questa bolla di cristallo che questo albergo svizzero, e racconta appunto la solitudine. Quello di Thomas Mann. Sì, dalla montagna incantata, ci sono delle ascendenze della montagna incantata di Mann, e ci sono questi due corpi mitici di cinema che sono Michael Caine e Harvey Keitel, che sono il pantheon sorrentiniano, e quindi... Ma nella loro fase di putrefazione li espone. Sembrano un po' Jack Lemmon e Walter Matthau negli ultimi film, ti ricordi quando si facevano quelle battute che comunque rimanevano molto spiritosi e divertenti. Ecco, qual è il senso? Allora, questo sarà un film senz'altro stupendo, al di là del tributo che gli ha dato Cannes, che non ci riguarda e non ci tocca, però un film faticoso da fare è anche stata una grande sfida, perché parlare oggi di decadenza non piace a nessuno. Siamo in un momento di immortalità, di tenuta fisica eterna, ancora vanno in giro personaggi della politica mummificati e parlano di progetti, ancora nella nostra televisione, che in fondo è la chiave di volta, è lo spettro portante della nostra società. Ci sono personaggi come Pippo Baudo che dicono: fatemi fare ancora un festival di Sanremo invece che andare ai giardinetti a giocare a bocce. C'è una vecchiaia interminabile, infinita. Ma pensando all'operazione che ha fatto Sorrentino, mi viene da pensare a un modello che in realtà fa parte delle mie reminiscenze lontane, che già allora mi assatanava. È un pezzettino di Guido Gozzano, dei Colloqui, che parla del giovenile errore, che è terrificante, ma stiamo parlando inizi Novecento, capito? Quando parla di questa sorta di timore della decadenza, dice: già lentamente sul mio cielo grigio, 25 anni già il sole declinava lentamente sul suo cielo grigio, 30 anni ne parla così, la trentina inquietante e torbida di istinti moribondi, già 30 anni uno già degli istinti moribondi, già senti l'allo della morte, poi ecco la quarantina spaventosa, età cupa dei vinti. Tu, Sansonna, che c'hai più o meno 40 anni. Quasi 38. Sta entrando nell'età cupa dei vinti. E poi la vecchiezza, l'orrida vecchiezza dei denti finti e dai capelli tinti. Ma questo ci dice Sorrentino? No, ci dice che qualcosa di più vicino a Pasternak, ovvero che la vecchiezza è una Roma senza burle e senza ciance, che non prova esige dall'attore ma una completa e autentica rovina. Cioè, però lo porta tutto sul piano estetico, qui non c'è organico, non ci sono corpi in disfacimento in Svizzera, anzi sono molto ben conservati, mummificati, eppure come se fosse il paradiso immaginato da Sorrentino, ancora ci emozionano quando sfiorano i giovani, quando sfiorano i bambini. Vabbè, sembra il prete qui della stazione Termini che andava a raccattare gli zingarelli. che si emoziona a sfiorare i giovani. Dai, dove va? 800 24 00 24. Esiste una maniera ilare, allegra, per parlare in maniera esorcizzante della decadenza? 800 24 00 24. 11 aprile 1908, la stessa data precisa. E che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire, vuol dire. Ma come, non capisci? Vuol dire che ho i giorni contati. Per questi oppure? Tutti hanno i giorni contati. Appunto. E allora io faccio vacanza. Spero che vi siate segnati il nome dell'esperto che stava in studio qui in questa stessa sedia fino a mezz'ora fa, che era esperto in patologia delle gonadi, perché a sentire questo viene la voglia di strizzare. Esatto, questi erano i giorni contati, film sublime e strepitoso di Elio Petri del 62, quindi un'altra epoca in cui le età della vita erano percepite in tutt'altro modo. E qui Salvo Randone, con le sue occhiaie da esistenzialista, la sua aria da filosofo, aveva anche a 6 anni le occhiaie Salvo Randone. Sì, esatto, quindi rappresenta, coglie la sua mezz'età per altri motivi, ma c'è Stagnaro, fa nel film Stagnaro, come lo definirà brutalmente Volonté in Indagine sul cittadino di sopra di sospetto. E Stagnaro però di colpo si rende conto che la vita passa e quindi decide di smettere di lavorare, ma non lo decide da filosofo, da uomo da salotto, ma da idraulico. Quindi decide di sospendersi e quindi consegnarsi alla miseria, perché il tempo corre e passa. Quindi c'è un esistenzialismo visto dal basso geniale, è un film meraviglioso. Ecco, al di là dei voli che sta facendo Giuseppe Sansonna, pensate che esista oggi una possibile narrazione di una quieta, accettata e serena decadenza? Non c'è mai decadenza serena, non ci prendiamo in giro, ma è stata rappresentata molte volte nel cinema, e oggi è un regista molto in vista, un regista che rappresenta comunque almeno il desiderio, il coraggio di osare dove gli altri non osano. Non fa mai filmetti facili, non fa filmetti scontati. Fa un film chiamato Giovinezza, che parla di vecchi in un momento in cui nelle stesse passerelle dei festival cinematografici ci sono quintali di silicone, di botox, di ritiramenti, di vecchi rincoglioniti, di dentiere, come dice appunto Gozzano, e di capelli tinti, e nessuno vuole vedere qualcosa che parli comunque della decadenza. È verissimo, però anche se appunto, sì, ti ripeto, ne parla come di corpi mitici, li sospende in una alea inorganica, e questo però ha il suo fascino, è come se fossero anime, sono anime inorganiche, è la sua visione forse del paradiso, se la grande bellezza era un inferno purgatoriale, questo è il paradiso, visto da Sorrentino. Come sta tua sorella? Sono anni che non la vedo, è una grande star adesso. Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te? Io avrei puntato tutto su te. E avresti perso. Beh, sei stanco. Buonanotte. Buonanotte, Mo. Grazie. Che hai fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto. Mi dicono le mie due assistenti, che sono il professor Chiappini e Valerio Rocchetti, che non arrivano telefonate. Ci credo, si sente soltanto questo rumore. Sentite, è il rumore dello strizzamento. È chiaro, non è una trasmissione facile. Parliamo di qualcosa di cui nessuno vuol parlare. Ma esiste una maniera per parlarne, o è meglio non parlarne? Perché se Sorrentino l'ha fatto, neanche preso lo scotto, perché sono tutti tornati un po' con le pive nel sacco, che ci torni Moretti, che ci torni Garrone, ma che ci torni lui, ci sembra un po' singolare, perché ci aspettiamo gran cosa. Ma lo ha fatto perché è andato a mettere il naso in una zona dell'immaginario generale, non soltanto del nostro paese, in cui non ci si mette mai l'occhio volentieri. Guardate le pubblicità, quelle che infarciscono anche il mio programma: pannoloni contenitivi, adesivi per dentiere, e se ad esempio questi anziani felici, contenti, che ballano il tangaccio con il pannolone contenitivo, queste signore che addentano la mela e queste altre che hanno lo spisciolino che gli perde dentro l'ascensore, tutti contenti e felici, come fai a raccontare? A me il grande rimorso di una giovinezza perduta, non assai goduta giovinezza. Oggi ti vedo quale fosti, vedo il tuo sorriso, amante che s'apprezza solo dell'ora trista del congedo. Adesso mi sto buttafocando, devo stare attento. I vecchi erotizzati da Maria De Filippi, no? Trascinati in queste balere stroboscopiche, no? In cui c'è un amplesso imminente ogni volta, non è mai troppo tardi. È l'anticamera del trituratore, come nei lavandini che tritura i rifiuti per non far vedere più niente. E questo era già anticipato generalmente da Capricci di Carmelo Bene, questo per chi se lo volesse andare a recuperare. Però quello che abbiamo sentito prima invece era C'era una volta in America, che è il film brutalmente, sublimemente prustiano di Sergio Leone, in cui appunto dei gangster riflettono sulla ricerca del tempo perduto. Per molto tempo sono andato a letto presto la sera, l'inizio della recherche proprio letterario, e Leone lo mette sulle labbra di Noodles, del suo protagonista, e glielo fa dire a Fatmo, il personaggio vicario, quello l'assiste, l'ancella diciamo di Noodles, che gli chiede un bilancio esistenziale, dice, e si parla di vincenti, si parla di percorsi, si parla del tempo irrimediabilmente, sì, un ambiente in cui però avere una certa età e acquisire carisma, certo. Il padrino, l'anziano, era a tutti gli effetti una persona che aveva una sua età, aveva un suo vissuto, aveva il suo rispetto. Umberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Il nostro Umberto D, mi dica. Io ho 49 anni, non ho ancora visto il film, però penso che affrontare... Scusi, per Gozzano è nell'età cupa dei vinti, 40 anni. Appunto, no, io 49, oltretutto nei 50, sarà anche peggio. Vicino all'orrida vecchiezza, quindi. E infatti, no, io penso che stia affrontando l'avanzare dell'età abbastanza bene, ma perché? Perché penso comunque che si possa affrontare bene la vecchiezza se non si è lasciato niente indietro, cioè uno deve aver passato una bella giovinezza. Penso, almeno al mio pensiero, poi posso anche sbagliare per l'amore. No, no, lei ha ragione. Certo, uno, diciamo che i rimpianti, io sono più sul filone gozzaniano, per la giovinezza sprecata vengono sempre a posteriori. Finché uno è giovane non si rende conto di sprecarla. Si brucia il tempo perché è convinto di avere un tempo infinito. Non risparmia nulla di sé perché pensa di essere immortale. Ci hanno passato il tempo, dice, guarda quante serate mi sono sprecato a fare avanti e indietro lungo Corso Vannucci di Perugia, pensate alle cose che ho potuto fare, a chiacchierare con gli amici di quello che avremmo fatto da grandi, ma eravamo già grandi, non ci siamo resi conto. Ada, buongiorno. Ah, buongiorno Luca. Sì. Io volevo intervenire su questa cosa della decadenza, sul termine che tu hai usato della decadenza. Sì. Io non mi sento decaduta perché ho 68 anni, perché io penso che la vecchiaia o la decadenza, come la vogliamo chiamare, fa parte della vita. Quindi si nel chiacchia, momento che lo io so, nasco, anche calcio sulle patte, tutto fa parte della vita. Beh, sì, certe no, cose si accettano meglio, certe peggio. Certo, io però parlare di decadenza mi sembra non opportuno, perché comunque, certo, poi io per esempio lo accetto con serenità, perché tengo conto che questa cosa fa parte della mia vita, per cui cerco di gestirmela al meglio, no? Sì, ma se così questo fosse, non ci sarebbe delle poesie sublimi come ad esempio, ne so, era meglio morire da piccoli con i peli del culo batuffoli. È chiaro che sempre esiste. Gozzano sempre, anche quelle, sì, sempre, c'è sempre comunque un motivo di rimorso, di rimpianto. È rimpianto, se non avessimo memoria non avremmo rimpianto. Purtroppo è la nostra memoria che ci dà un senso di rimpianto di qualcosa che ci sfugge. Ci fermiamo un attimo perché c'è il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Che fai? Stai a casa sola? Beh, come sempre. Ci sono rimasta tante volte. E vabbè. Certo, però, tutte le volte ci hai fatto stare in pensiero. Tu non sei più una bambina, mamma. Io sono tuo figlio, ho delle responsabilità. Non sono mica come il cocco di mamma che se ne frega. No, no, per me eravate tutte e due uguali. Eh sì, lo dici tu, tutti e due uguali. Invece no. Allora mi portate giovedì. Giovedì dici? Eh? Come vuoi. Ma che facciamo? Vai e vieni, avanti e indietro. Ormai siamo qua, ma... Ma io non ho portato niente, ma non c'ho niente. No, no, no, c'hai tutto, tu c'hai tutto, mamma, guarda. Guarda che t'ha preparato Patrizia. Guarda che valigione, perché ha detto, hai visto mai che mamma decide di restare? Tutto t'ha messo come una figlia. La verità una delle che più l'hai sottovalutata. Tu l'hai nefande infamate di Alberto Sordi. Porta la madre all'ospizio, se la leva dalle palle. E poi dice, trattatemela come una regina, dopo averla abbandonato in un posto, far venire i brividi con le monache, la portano dentro, già si capisce, va allo smaltimento differenziato, ossa da una parte, capelli dall'altra, pelle dall'altra e via dicendo. 800240024, parliamo della decadenza, della vecchiaia. Sentite questo rumore, non vi proprio preoccupate, che abbiamo, grazie a Dio, il cellulare del gonadologo che stava in studio poco fa, e quindi poi ci rivolgeremo a lui per le contusioni. Nicoletti, ho 60 anni, sto preparando la valigia per partire con un'amica cinquantenne per una breve vacanza. Beh, potevi scegliere la più giovane. Non pensiamo affatto alla vecchiaia, ma le nostre prospettive nella vita. Altro che Uciverba e Giardinetti, la decadenza rimane lontana finché si ha un progetto da realizzare. Beh, vediamo poi, non voglio entrare nei particolari. Finché non ci si ammala non si è vecchi, giustissimo, questa è la verità, finché stai bene sei giovane. Che bello Nicoletti, dopo 10 giorni senza melo sapevo che mi avrebbe fatta sorridere audacemente. Susi, classe 63, la bambina, avercela. Allora Giuseppe, no, ma la cosa straordinaria è che tu, io sono sempre più convinto delle tue virtù medianiche, perché tu non hai visto il film di Sorrentino ma continui a sfrigolare il bicchiere, che è il gesto che fa Michael Caine nel film con la carta delle caramelle. No, è l'onomatopea delle gonadi. Sì, sì, lo so, però è questo quiz. Comunque, tornando al film che tornando al film che avevamo ascoltato, appunto, è un film del 77, I nuovi mostri. Sordi oscilla sempre fra il suo sentimentalismo, mammonismo, nello scaricare questa anziana madre dolcissima che però viene relegata fuori dalla città, in questi eremi non vengono più, cioè, appunto, parlavamo prima dell'esibizione dell'anziano costretto a essere giovane per sempre, costretto a elettrificarsi. Sì, una fatica, non ti dico. Quindi tutto questo all'epoca ancora non si faceva. Vennero smaltiti direttamente, sì, sì. C'erano ancora delle brave suorine che se ne occupavano. Michele. Sì. Dica. Buongiorno. Ma non ho visto il film, quindi premetto questo. Ho visto solo la locandina, che mi ha di nuovo abbastanza sorpreso, ecco, diciamo, come lo descriveva lei, questo culo di donna, no? In primissimo piano, in posizione ad indicare un pochino quelle che erano state le mie impressioni nei due precedenti film di Sorrentino, quindi La grande bellezza e il precedente. Credo è rimasto impresso solo quello, il contorno. No, ma tutt'altro, ecco, parlando di decadenza, io direi che la decadenza, riferendomi proprio a Sorrentino, potrebbe essere descritta come una decadenza di tipo culturale, dove lo sforzo di Sorrentino si riduce sempre nel contrapporre, diciamo, il mondo di una certa età al mondo estremamente come dire, forzatamente giovane. Com'erano belli i tempi di una volta. Già, allora lei ha ragione, si dice questo, è perfettamente gozzaniano Sorrentino, si trova anche lui, quanto ha? 46 anni, si avvicina ai 50 anni, cioè la vecchiezza e l'orrida vecchiezza, perché per Gozzano dopo la quarantina spaventosa e Tacupa dei vinti, infatti non ha certo vinto a questo festival, si avvicina anche lui ai 50 anni, che è l'età della fine. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono relativamente giovane, ho 35 anni. Ma 35 credo anni? Sì, la decadenza da noi parte. Mica tanto, la Trentina inquietante, torbida, di istinti moribondi. Lei ce l'ha, sì, gli istinti, perché... ce l'ha gli istinti moribondi? Assolutamente, quotidiani, ogni secondo. Gozzano, in particolare penso che i trentenni siano i nuovi cinquantenni e invece i cinquantenni i nuovi trentenni. Secondo me a 30 anni ci sentiamo sulle spalle una responsabilità di una vita che si prospetta lunga e faticosa e tormentata e decadente. Ma lei ha ragione, lo sa perché? Perché i cinquantenni hanno un maggiore potere d'acquisto, quindi escono, sì, con le trentenni, e i trentenni possono uscire con le sessantenni. Se ancora le quarantenni sono le nuove ventenni, certo, e quindi questa è una cosa che provoca nei 35 anni una decadenza, perché trovi queste le quindicenni sono per i settantenni. Esattamente così, sì, o quelle che non si sa che hanno 15 anni. E le ottantenni quindi... vanno a fare viaggi nei paesi caldi, perché ancora lì c'è qualcuno. Perché pensano di avere altri 10 anni di vita, invece, certo, quando prima l'età media era sui 50 anni, non c'era il tempo, si sperava nella decadenza, ma non arrivava mai perché si moriva troppo giovani. Oppure, vabbè, non se la prenda, giovani. Non se la prenda. Sento questo rumore che mi preoccupa. Stia tranquillo, Stefano. Antonia. Buongiorno, sono Antonia. No, senta, io volevo dire che faccio appello sempre alla mia autoironia. Mezza santa, mezza demonia, come un noto film. Prima Monica e poi demonia. Prima Monica e poi demonia. In quale fase è? Della Monica? No, Antonia, scusi Antonia, in quale fase è? Della Monica o della demonia? In mezzo che c'è? Per l'età che ho, sì, in mezzo. C'è lo diavolo tuo dello mio inferno. Nel mezzo, no, dicevo, io faccio sempre appello alla mia autoironia anche per andare incontro alla decadenza. L'ironia è l'unica arma che si ha per sopportare cosa la realtà. Cosa le sta decadendo soprattutto? Qual è il peso della decadenza che sente di più? Io in buona sostanza nessuna, però quando guardo i vecchi, quando vedo la vecchiaia, diciamo, parli di lei, lascia perdere la prendo i sempre in giro, la prendo sempre in giro perché sembra quasi che intoccabile, e in modo, esorcizzando forse un mio futuro, futura paura della vecchiaia. E quanto le manca diventare vecchia? Vecchione 40 anni. Lei quanti anni ha? 45. Vabbè, però 45 l'altro, quindi vi dissacro un pochino e poi penso comunque quando, fin quando il cervello. Ma come nella funziona. Fase toy boy ventenni, dai, ha un buon mercato. No, ma non ho paura della decadenza fisica, ho beata paura lei, sicuramente della lei. Decadenza mentale. E quindi sono sì, ma a paura, scusi, Antonia, lei ha ragione. Sì, la decadenza fisica fa più paura, perché la decadenza mentale uno non se ne accorge, si rincoglionisce e quando è rincoglionito che soffre, è lì, è tutto contento. La decadenza fisica con una mente lucida è terrificante, sei d'accordo, Sansone? Sì, sì, in parte sì. Dobbiamo chiudere, ci fanno un gesto rotondo per dire dobbiamo chiudere, chiudiamo. Peccato, era un argomento divertente, ma ahimè il tempo ci porta via, ci decade. Grazie alle mie vallette, professor Chiappini e professor Rucchetti.